30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Una cinquantina di persone dell'organizzazione del governo della Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba di Bosnia, ha reso omaggio il 30 maggio scorso ai militari dell'ex esercito federale jugoslavo caduti nello scontro con le forze governative bosniache il 3 maggio del 92, inizio della guerra in Bosnia 1992-95. Mentre il gruppo deponeva fiori e candele accese, alcuni ex appartenenti alle associazioni dei veterani ha manifestato il proprio disappunto per la cerimonia, gridando ai partecipanti assassini e aggressori, ma non ci sono stati incidenti. Cari amici, buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Una notizia piccola, passata inosservata evidentemente rispetto alla grande attualità della crisi economica, che ci riporta a Sarajevo, una città che celebra, si può dire così, i 20 anni dell'inizio di una guerra che ha devastato la città, ma che ha anche inciso nel profondo nello spirito europeo, di fatto alimentando quelli che poi sono gli spettri del nostro continente, gli spettri che sono quelli del nazionalismo più estremo, del conflitto di religioni, insomma tutte quelle cose che nella modernità europea a volte ci illudiamo di aver lasciato alle nostre spalle. E questa sera abbiamo un ospite che ha pubblicato e scritto un libro che ha un titolo chiaro: Saluti da Sarajevo, passato e presente di una grande capitale che rinasce. Luca Leone, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Allora, Luca Leone, ve lo presento in estrema sintesi, è uno scrittore, editore, una persona che di fatto ha un rapporto d'amore, si può dire chiaramente, con Sarajevo, che ha coltivato attraverso una serie di pubblicazioni che oggi arrivano appunto a Saluti da Sarajevo, che di fatto è una guida, è un invito ad andare nella città. Vorrei cominciare con Luca Leone proprio dalla nostra notizia. Quanto dolore si può provare in una piccola manifestazione, in fondo, un gruppo di veterani serbi, qualche fiore, il dolore, le proteste, però senza incidenti. Ho voluto sottolineare questo aspetto, che in fondo non è scontato. No, non è scontato, però conoscendo lo spirito di Sarajevo lo è abbastanza. Sarajevo è una città tollerante, una città aperta, una città in cui la violenza non è di casa, e ancora una volta i sarajevesi, quelli intelligenti, cioè la maggior parte della popolazione, lo ha dimostrato. Si tratta, come dire, dell'ennesimo tentativo di turbare una pace difficile, una convivenza comunque segnata da una guerra lunghissima che a Sarajevo ha avuto un prezzo altissimo, parliamo di oltre 11.000 morti. Sono dei tentativi di incrinare questa pace e questa convivenza difficile che da 15 anni a questa parte il governo della Repubblica Srpska porta avanti in modo costante e continuato. Ancora una volta Milorad Dodik, il presidente della Repubblica Serba di Bosnia, si è esercitato in questa attività che gli riesce molto bene, però Sarajevo ha risposto come sempre da par suo, cioè ha risposto con la civiltà. E questa è la cosa che mi preme sempre sottolineare quando parliamo di Sarajevo. Non dobbiamo avere l'idea di questa città come di una città ancora oggi in guerra. Sarajevo è rinata, sta rinascendo, la sua gente sta cercando di tornare a vivere, e lo ha dimostrato una volta di più contro questa, reagendo a questo ennesimo tentativo di rimestare le acque, no? di rimestare il torbido. Da parte, ecco, perché se c'è un aspetto che mi colpisce sempre, in fondo Sarajevo è stata, l'assedio di Sarajevo è stato associato, legato anche storicamente a quello di Leningrado durante l'assedio, la seconda guerra mondiale, i nazisti alle porte, ma la differenza clamorosa di queste due storie è che assedianti e assediati oggi continuano a convivere all'interno dello stesso spazio, cosa che chiaramente la storia della seconda guerra mondiale invece ha riordinato anche attraverso una violenza estrema. Tutti i protagonisti sono all'interno della città. Beh, in parte sì, in parte no. Vedi, dal 95 ad oggi la città ha comunque conosciuto uno spostamento di popolazione importante. Durante l'assedio tutte queste componenti nazionali, quella serba, quella croato-cattolica, quella musulmana maggioritaria, hanno convissuto per reagire, per contrastare l'attacco ultranazionalista, io direi semplicemente fascista, dalle montagne da parte di Karadzic, Mladic e tutti gli accoliti di Milosevic che teneva i fili da Belgrado. Circa 10.000 serbi hanno combattuto tra l'altro a Sarajevo per difendere la Sarajevo multinazionale e democratica e libera dall'assedio di Karadzic e di Mladic. Però poi dal 94 in poi qualcosa ha cominciato in effetti a rompersi, quindi già durante l'assedio che finisce alla fine del 95. Con la fine della guerra la geografia della popolazione sarajevese cambia abbastanza. Esiste oggi una concentrazione molto forte di sarajevesi serbo-bosniaci a Sarajevo Est, quindi già all'interno, anche se di poco, della Repubblica Srpska di Bosnia. Il resto di Sarajevo continua ad essere una città senz'altro multinazionale e estremamente tollerante, però la componente serba è senz'altro inferiore rispetto a quella che poteva essere nel 90-91, quindi c'è stato un po' uno spostamento di popolazione successivo alla guerra, serbi che hanno venduto case, musulmani che le hanno comprate e poi serbi che sono andati a vivere altrove, così come è successo anche in altre città della Bosnia Erzegovina, con i musulmani magari in questo caso, che invece sono stati costretti da quell'odio che in qualche modo serpeggiava dopo la fine di una guerra lunghissima costata oltre 100.000 morti, a lasciare appunto le loro case e ad andare a vivere altrove. Oggi questa situazione un pochino alla volta, con tanta difficoltà, comincia a modificarsi, quindi le persone e le famiglie cominciano a tornare nei luoghi di nascita, però ci sono voluti quasi 20 anni perché questo accada ed è un processo molto molto molto lungo che richiederà ancora parecchi decenni. Un processo faticoso, un processo doloroso. Luca Leone, perché ci si innamora, come ho detto di fatto nel tuo caso di Sarajevo, perché la si racconta attraverso il proprio lavoro personale, anche attraverso quello di editore? Ma vedi, io faccio il tuo lavoro, faccio il giornalista. Sono capitato a Sarajevo tanti anni fa, dopo la guerra, quasi per caso per la prima volta, e ho cominciato a raccontarla perché vedevo in Sarajevo cose, elementi, situazioni che non mi venivano raccontate sulla stampa italiana, che da lettore sinceramente invece avrei voluto leggere. Un po' alla volta, dopo tanti tantissimi anni di frequentazione della città e delle persone, con rapporti di amicizia, a volte addirittura quasi familiari, che si instaurano, è inevitabile poi diventare quasi cittadini di quella città, cercare di capirne lo spirito, cercare di farsene portatori, di raccontarlo. Cosa avresti voluto leggere che non leggevi sulla stampa negli anni appunto del conflitto e dell'immediato post-conflitto? Avrei voluto leggere le vere ragioni del conflitto, invece ho visto che la spiegazione che ne abbiamo dato qui in Italia è stata molto molto molto legata alla propaganda politica di parte. Avrei voluto leggere semplicemente che quella guerra non è sorta, non è scoppiata per questioni etniche e religiose, ma è scoppiata perché una parte, quella ultranazionalista serba e poi quella ultranazionalista croata, ha attaccato la Bosnia per smembrarla e per mettersela in tasca. Perché il mito, perché la costruzione, perché Kosovo Poglie, luoghi, simboli che fanno parte della storia, li potete leggere anche, sono nomi che in fondo fanno parte della storia anche nostra, ma che negli anni 80 poi sono diventate delle vere e proprie armi. Luca Leone lo racconta in Saluti da Sarajevo, ma come vi ho detto è anche un libro di viaggio, una guida ragionata per andare in fondo a riscoprire anche il cuore di un'Europa multietnica, multireligiosa, che è stato sì violato ma che è tutt'altro che morta. 30 minuti in cronaca. Sì, Saluti da Sarajevo, passato e presente di una grande capitale che rinasce. Luca Leone, questa sera nostro ospite, che ha pubblicato appunto per Infinito Edizioni questo volume che in una prima parte è un racconto anche storico della straordinaria storia di questa città che già nel suo nome Sarajevo, anzi magari chiederemo a Luca proprio di spiegarcelo, in fondo rappresenta questo punto a metà strada geograficamente tra Vienna e Istanbul, ma che nella seconda parte come libro è invece un invito a tornare a Sarajevo. Allora Luca, il nome Sarajevo, dicevo, è già tutto un programma della storia. Beh sì, perché il nome Sarajevo deriva dall'unione di una parola, Sarai, turca, ottomana, e invece il suffisso Jevo è una parola slava. Quindi già da questo si capisce un po' quale possa essere lo spirito della città. Destino anche, no? Della città che comunque vada, rimane al cuore, nel cuore dei Balcani, al centro, davvero l'espressione crocevia dei popoli e delle culture in questo caso non è davvero mal spesa. Ma dicevo, una guida che parte da Aerodrom e che ci porta attraverso luoghi simbolo di questa città. Sì, ho cercato di disegnare dei percorsi, sono 13 percorsi con foto e testi. Ho scelto l'aeroporto, l'aerodrom per partire perché è più facile arrivare in aereo a Sarajevo che non in alto con altri mezzi. Però poi alla fine sono percorsi che possono essere, come dire, presi e ricomposti in vario modo. L'aerodrom è importante anche perché ancora oggi nei pressi dell'aerodrom c'è il museo del tunnel sotto l'aeroporto di Sarajevo, che è molto significativo e va senz'altro visitato da parte di un turista che per la prima volta vada a Sarajevo. Quale tunnel? Beh, il tunnel quel che permise dal 93 al 95 alla popolazione di Sarajevo di lasciare la città assediata. Sarajevo fu appunto assediata dal 92 al 95 per 1350 giorni e all'inizio del 93 il governo libero, come veniva chiamato, il governo della federazione di Bosnia e Erzegovina con capitale a Sarajevo, decise di costruire sotto il tunnel, sotto l'aeroporto, questo tunnel che collegava un quartiere periferico, quello di Dobrinja, con un altro quartiere, quello di Butmir. Un cordone ombelicale, scusa se insisto, perché tunnel è un termine abbastanza generico, a volte nei tunnel ci passano i camion. Quanto è grande questo tunnel? No, era un tunnel piccolissimo, stretto un'ottantina di centimetri, alto in alcuni punti 1,40 m, 1,50 m. Era proprio un vero e proprio, era quasi un buco più che un tunnel, un buco che passava sotto l'aeroporto, lungo quasi un chilometro, spesso pieno d'acqua anche per 80-90 centimetri, per cui si camminava in condizioni difficilissime, e la gente disperata passava attraverso questo tunnel per andare o per scappare dalla città o per andare soprattutto a cercare generi di conforto, cibo, abbigliamento e quant'altro al di fuori dell'assedio. Ecco, tu scrivi, quante persone sarebbero passate da questo tunnel? Ci sono stati milioni di passaggi in questo tunnel, purtroppo ci sono stati anche passaggi di coloro che uscivano dalla città per andare a comprare direttamente dagli assedianti serbo-bosniaci il cibo e i materiali da rivendere poi al mercato nero ai loro concittadini dentro la città. C'è gente che purtroppo grazie al tunnel si è anche arricchita, però il tunnel è servito anche per far passare le truppe, è servito per far passare i giornalisti, è servito per far passare persone che dovevano andare all'estero per essere curate perché gravemente ferite durante il conflitto, quindi ha avuto una sua importanza sociale notevolissima. Un luogo simbolo naturalmente, cos'altro? Perché ci dici andate a Sarajevo 20 anni dopo la guerra? Per vedere cosa? Ma perché ad esempio Sarajevo è l'unica città al mondo in cui è possibile in 200 metri quadrati vedere i templi delle quattro principali religioni monoteistiche, quella ebraica, quella cattolica, quella ortodossa e quella musulmana, guardarsi ma non sfidarsi, guardarsi e dialogare, perché alla fine io credo che se Dio esiste abbia tanti nomi ma sia uno solo, e l'importante è che ci si metta d'accordo e credo non sia difficile trovare un accordo su questo. Sarajevo è città mistica ma neanche città di grande tolleranza, è una città che merita di essere visitata non soltanto per la sua bellezza archeologica e storica, ma anche per la bellezza delle persone e per l'insegnamento che le persone comuni sanno darci, e cioè insieme possiamo vivere, abbiamo vissuto insieme per 500 anni da quando esistono i musulmani in Bosnia e Erzegovina, perché non possiamo continuare a farlo? questo è credo l'insegnamento più importante. Ecco, l'estremismo nazionalista ha cercato esattamente di cancellare, di estirpare proprio quello, e non l'ha fatto a Sarajevo come in altri purtroppo molti luoghi dell'Europa e non solo. Oggi quello che tu racconti è una città che comunque con tutto il suo dolore ha preservato questa idea che è dell'essere oltre che della cultura. Assolutamente, Sarajevo sì, altre parti della Bosnia-Herzegovina purtroppo no, ma Sarajevo in questo è senz'altro un passo in avanti rispetto al resto del paese, cosa abbastanza normale per la capitale in Bosnia-Herzegovina. Ci sono invece altre parti del paese in cui la pulizia etnica ha avuto sia in Erzegovina che in Repubblica Serba di Bosnia i suoi effetti drammatici e lancinanti, e lì è molto più difficile riavviare un dialogo, però per fortuna in molte parti c'è chi ci sta riuscendo, anche se, ripeto, sarà lunghissima. Ci sono parti della Repubblica Serba di Bosnia drammaticamente serbizzate, dalle quali musulmani e cattolici e altre minoranze sono state letteralmente espulse. Ci sono parti dell'Erzegovina a maggioranza cattolica e musulmana in cui è avvenuta la stessa cosa. Lì basti pensare a Mostar, lì il dialogo è molto molto più difficile, però partendo da Sarajevo e partendo da Tuzla e da altre città della Bosnia-Herzegovina questo dialogo è stato riavviato, nonostante i nazionalisti al potere si sforzino ogni giorno attraverso la stampa, attraverso l'università per negare la possibilità di un dialogo, però la gente comune ce lo sta dimostrando, si può fare, si può tornare a vivere insieme. Sarajevo, grande città di cultura, uno dei luoghi e dei momenti forse simbolicamente più drammatici, quelli che ha dato, come dire, la sottolineatura della portata dell'evento storico che 20 anni fa si andava consumando, è quello di una biblioteca straordinaria che andava in fiamme. Ora, in conclusione, dopo questo disastro, oggi cosa visitiamo se vogliamo conoscere la cultura di Sarajevo e di questa parte del mondo? Ma guarda, Sarajevo nasce alla fine del 400, quindi da fine 400 in poi è piena di monumenti turchi, così come di monumenti, palazzi e costruzioni importantissime costruite invece dagli austriaci alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Sono 500 anni di storia, anche da un punto di vista architettonico, da visitare. Chi è invece appassionato di sport può immergersi nella Sarajevo delle Olimpiadi Invernali dell'84. Per fortuna molte strutture si sono conservate e tra l'altro il Palazzo del Ghiaccio, come lo Stadio Olimpico, come diverse altre strutture, si trovano oggi in una zona che è quella di Koscevo, particolarissima, perché sorgono letteralmente immerse in un gigantesco cimitero multinazionale, multiconfessionale. Le strutture di risalita invece sono state in larga parte distrutte e si spera che prima o poi arrivino i soldi per ricostruirle. Per tornare anche a sciare, per tornare a fare quello sport che negli anni Ottanta abbiamo visto a Sarajevo. Grazie a Luca Leone, lo ricordo, saluti da Sarajevo, Infinito Edizioni, passato e presente di una grande capitale che rinasce e che vale la pena visitare. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, 30 minuti in cronaca, torna come sempre sabato prossimo intorno alle 19.30. We'll be right back.